Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria che dal punto di vista borsistico è sostanzialmente piatta, piattissima, 0-0-0. La variazione in questo momento di Milano, più 0,1 Parigi, 0,07 è il rialzo di Francoforte e meno 0,07 fa Londra, non poteva fare altrimenti. Dow Jones meno 0,07, sembra una barzelletta oggi raccontare gli indici, ma sono tutti allineati nello stesso modo, quindi tutti piatti. Tra i titoli segnalo Enel meno 1,80 come CNH Industrial, Telecom Italia meno 1,5 come TOZ. Di Telecom, e qui entriamo negli nostri approfondimenti, nelle notizie che tratteremo, ci occuperemo perché ahimè oggi dopo l'incontro al Ministero dello sviluppo economico si è saputo che Telecom Italia ha annunciato a sindacati, appunto al Mise, un piano di 1700 esuberi da individuare in maniera particolare sulle aree di staff, director assistance, cross activity e parte dell'information technology. Al di là degli inglesismi, sono 1700 esuberi. Tra gli sindacati, nel caso specifico Massimo Cestaro della SLCCGL, definisce irricevibile la proposta che è arrivata dall'azienda. Il governo ha detto di essere in campo per favorire un accordo tra Telecom e sindacati. Chiaramente Telecom ha annunciato l'accantonamento delle assunzioni di 4.000 giovani annunciata tempo fa, questo in attesa della definizione di una normativa che sostenga il ricambio generazionale nelle aziende con elevata età media, permettendo allo stesso tempo la tutela dello sviluppo del livello occupazionale. Cioè il turnover, anziani, giovani, sì, attenzione, perché un gruppo privato ha tutti i diritti di chiedere anche un avvicendamento. Faccio notare che oltre al problema della disoccupazione giovanile abbiamo in questo paese un problema enorme di chi viene espulso dal mercato del lavoro e ha 50 anni o più di 50 anni, perché poi il reinserimento è difficilissimo, non voglio dire impossibile, ma difficilissimo. Di questo parleremo dell'ILVA per il doppio fronte ILVA, e cioè da un lato, come i nostri GR24 vi hanno già ricordato, il GUP del Tribunale di Taranto, Vilma Gilli, ha rinviato a giudizio 44 persone e 3 società per l'inchiesta sul presunto disastro ambientale provocato dall'ILVA. 2 imputati sono già stati condannati invece con rito abbreviato. Chiaramente questa è la parte che coinvolge direttamente la famiglia Riva, infatti Claudio e Nicola Riva sono finiti in questa rinvio a giudizio. Ricordiamo che il patrono Emilio Riva invece è scomparso nel 2004. Nicola è ancora detenuto dopo un periodo di latitanza a Londra. Tra i rinviati a giudizio c'è anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicky Vendola, accusato di concussione aggravata in concorso. Il processo inizierà il 20 ottobre, ma ci sono già più di 800 parti civili che si sono costituite in sede di udienza preliminare. Questo è il fronte del disastro, del presunto disastro ambientale. L'altro fronte invece più attuale, più di questi giorni, riguarda il famoso altoforno 2, quello che dovrebbe essere bloccato secondo quanto stabilito dal curatore, e di cui abbiamo parlato, perché l'altoforno 2, se si blocca, fa sì che si blocchi tutta l'attività dell'ILVA. Parleremo di Telecom Italia quindi e di ILVA. Parleremo però anche dei dati in apertura diffusi oggi dal Centro Studi di Confindustria, che sono leggermente più positivi sull'andamento del 2015. Il Centro Studi di Confindustria aveva già indicato degli scenari in crescita nel rapporto di metà giugno, però dice che stanno andando anche meglio delle attese. Stima una crescita del PIL dello 0,8% per quest'anno, dell'1,4% nel 2016. Ma dicevo, di questo parleremo tra poco. 349-238-6666 per i vostri sms e la parte, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Le altre notizie in breve. Fate notare che ho detto 2004 era 2014, chiaramente quando l'anno scorso, quando è scomparso il patron dell'Ilva, ma ripeto, e quindi anche di questo parleremo, però il tema non è, il tema è rinvio a giudizio in questo caso. Chiaramente Emilio Riva è scomparso nel 2014. Le altre notizie in breve, restiamo sulla borsa, perché oggi invece ST Microelectronics, dopo i cali di giorni scorsi, guadagna quasi l'8%, il 7,90%, bene anche Azimut più 1,80%, Moncler più 1,70%, Mediobanca più 1,40%, UX più 1,20%, euro a quota 1,09%. Visto che parliamo di mercati finanziari, citiamo anche lo spread, che è sempre buono, nel senso che l'andamento è a 118 punti come differenza tra quanto costa noi indebitarci rispetto alla Germania. Il BTP a 10 anni rende l'1,91%. Ancora notizie dalla Grecia. Beh, insomma, la notizia dalla Grecia, intanto oggi, prima di arrivare alla Grecia, è il caso anche di ricordare il superindice sull'economia americana, che è cresciuto nel mese di giugno oltre le stime, più 0,6%. Tra l'altro un dato che si lega con il buon dato sempre dagli Stati Uniti sui sussidi di disoccupazione, che sono scesi ai minimi da 40 anni a questa parte. Ci sono dei dati che stanno riportando l'America, ormai sono tanti, delle volte spuri, ma stanno riportando l'America a livelli ben superiori al 2008, all'avvio della crisi finanziaria. Dicevo, 26.000 domande a 255.000 sussidi di disoccupazione è il livello più basso dal 1973 negli Stati Uniti. In Europa invece continuano ad esserci dati altalenanti, la fiducia dei consumatori è calata, e questo nel mese di luglio. In Spagna invece la disoccupazione è ai minimi da 4 anni, è sempre altissima, è la più alta, diciamo, eccezione fatta per la Grecia, ma è scesa dal 23,78% al 22,37%. È un livello appunto che non si vedeva, per quanto alto, dal 2011. Sono comunque 5 milioni senza lavoro in Spagna, e ripeto, è il livello più alto dopo quello greco. Visto che parlavamo di Grecia, oggi appunto è arrivato il sì, 203, è arrivato nella notte in realtà, 230 voti a favore, 63 contrari e 5 astenuti, il sì al secondo pacchetto di riforme richiesto dai creditori. È quello che prevede la riforma del codice di procedura civile e l'adozione di una direttiva europea sulla risoluzione tra le banche. Per quello che riguarda le notizie a cavallo tra cronaca, economia e politica, beh, c'è il sì dell'ex ministro delle finanze Varoufakis. Anche Varoufakis ha votato sì all'accordo. Oggi, stasera e domani arriveranno i rappresentanti dei creditori, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea e Banca Centrale Europea, arriveranno ad Atene. Il 20 agosto la Grecia deve rimborsare 3 miliardi e 200 milioni alla BCE e 1 miliardo e mezzo lo deve rimborsare a settembre. Veniamo all'Italia, i dati di oggi sull'export extra Unione Europea sono dati in calo nel mese di giugno, però meno 1,6% sul mese precedente, però nel periodo aprile-giugno complessivamente il nostro export ha segnato un altro 0,5% rispetto a un anno prima. Il confronto però, se si guarda al giugno 2014, è positivo anche nel mese, perché c'è un più 9 0,1%, poi elevati i giorni del calendario, comunque resta un aumento del 5% nel nostro export, 5,6 giugno 2015 su giugno 2014. In crescita tutti i comparti, l'energia più 30%, poi vanno bene anche gli altri comparti del nostro export. Quanto a mercati, devo dire che quelli più dinamici si sono dimostrati a giugno: la Turchia più 27%, stiamo parlando dei paesi fuori dall'Unione Europea, gli Stati Uniti più 23,5%, Giappone più 15%, Svizzera più 9%, male invece le vendite, ancora male verso la Russia, ma lì c'è il tema delle sanzioni, delle controsanzioni russe. Allora, due notizie che faranno arrabbiare molti ascoltatori. Secondo quanto denuncia la CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, il governo ha deciso di reintrodurre dopo 4 anni il pagamento degli interessi di mora anche sulle sanzioni, sugli interessi relativi ai debiti col fisco. È il famoso tema dell'anatocismo. L'erario potrebbe incassare da tutti i contribuenti coinvolti oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro. L'anatocismo in questo caso non sulle banche, ma negli interessi di mora e gli interessi relativi ai debiti con il fisco. Ancora, sempre sul tema del fisco, oggi abbiamo scoperto che è cresciuto il valore degli immobili, è cresciuto per quello che riguarda l'osservatorio dell'Agenzia delle Entrate, perché al 31 dicembre 2014 la rendita catastale del patrimonio immobiliare italiano era cresciuta dell'1,5%, di mezzo miliardo di euro. Sono state censite 34.700.000 abitazioni, è aumentato il numero complessivo della quota di abitazioni censite nel catasto, quelle di tipo civile segnano un incremento dell'1%, quelle di tipo i villini più 1,1%, diminuiscono le abitazioni rurali meno 4,3%, quelle popolari meno 0,6%, quelle ultrapopolari meno 3,7%, quelle signorili meno 1%, le ville meno 0,3%. La superficie media risulta essere di circa 117 metri quadri, ma la Confedilizia fa notare che dall'introduzione dell'IMU in poi la pressione fiscale tra 2011 e 2014 gli immobili ridotti a rudere sono aumentati del 58%, perché i proprietari, non potendo più pagare l'aumento della tassazione immobiliare, li privano questi immobili delle caratteristiche che li rendono immobili normali, li trasformano in ruderi. La seconda notizia che farà arrabbiare gli ascoltatori riguarda i condizionatori. Perché lo dico? Perché secondo Federconsumatori Adusbef sta per arrivare la tassa sull'aria condizionata. Io capisco che faccia caldo, ma è prevista da una direttiva europea sulle emissioni di anidride carbonica. Praticamente l'aggravio secondo i consumatori potrebbe arrivare a 200 euro a famiglia. La direttiva obbliga i proprietari a possedere un libretto di impianto, oltre a introdurre controlli di condizionatori ogni 4 anni, multe salate per chi non è in regola dai 500 ai 3.000 euro. E poi la quotazione della Ferrari. Perché? Perché il gruppo Fiat Chrysler Automobiles, attraverso la sua controllata New Business Netherlands, che assumerà il nome di Ferrari NV, ha depositato presso la SEC, che è la Consob americana, la documentazione relativa all'offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie attualmente detenute dalla Fiat Chrysler stessa, cioè ha depositato la documentazione per quotare in borsa negli Stati Uniti la Ferrari. La sede fiscale di Ferrari Spa resterà in Italia, lo ha precisato il gruppo, che non ha escluso una possibile quotazione anche a Piazza Affari, alla Borsa di Milano. Sulla quotazione della Ferrari in borsa, per ora sicuramente a Wall Street, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, che vengono trasmessi anche su RDS, Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alessandro Plateroti. Oltre i limiti della luce c'è la tua infinita creatività. Con il nuovo smartphone Huawei P8 fotografi anche con pochissima luce. Huawei, make it possible.

Sì, perché da sempre stiamo raccontando, negli ultimi 3 anni soprattutto, che l'export ha fatto dei grandissimi numeri, un grandissimo lavoro, ma non riesci a far ripartire il PIL solo con l'export, ti servono i consumi interni. Da lì la vostra stima è che dallo 0,7 passa allo 0,8% come crescita del PIL quest'anno, confermate l'1,4% sul 2016? Sì, noi non abbiamo rivisto le previsioni, l'ultima nostra per il 2015 è 0,8. Teniamo conto che questo 0,8 era fatto, incorporava già uno 0,2 nel secondo trimestre, mentre potrebbe essere un po' di più, grazie appunto a questi ultimi dati, e scontava un'accelerazione nel corso dell'anno, uno 0,4 che potrebbe essere più forte. L'altro elemento da considerare è il fatto che avevamo tenuto delle ipotesi conservative per il cambio 1,15 sì, e per il petrolio $63 quest'anno, 70 il prossimo, l'andamento dell'uno e dell'altro sono stati più favorevoli e inoltre sul petrolio agirà l'arrivo dell'Iran, del greggio iraniano, e quindi ci sarà un ulteriore impulso da questo fronte. Beh, in effetti anche oggi il petrolio è sotto i $50, ma che sia 49 conta poco, insomma continua a oscillare tra i 49 e i 51, ma non verso i 60-70 che voi in maniera prudenziale stimavate, e anche il rapporto di cambio siamo tra 1,08, 1,09 1 e 1, non 1,15, quindi per ora i dati sono anche più favorevoli, e questo, se ho ben capito, ma la prudenza d'obbligo vi potrebbe portare a rivedere al rialzo anche la stima sulla crescita complessiva del 2015? Sì, ovviamente le nostre prossime previsioni verranno rilasciate a metà settembre, fino allora quelle diffuse un mese fa rimangono valide. Ecco, sul fronte Luca Paolazzi del piano annunciato dal Presidente del Consiglio Renzi, quello chiaramente, se dovesse essere, mi riferisco ai 50 miliardi in 5 anni di riduzione fiscale e quant'altro, quello se dovesse esprimere degli effetti li esprimerebbe chiaramente, se tutto va bene, dal 2016 in poi? Beh, ovviamente essendo un progetto di riduzione fiscale che parte dalla legge di stabilità, 2016 gli effetti cominceranno a vedersi l'anno 21. C'è un effetto annuncio che potrebbe materializzarsi, però tenuto conto del fatto che comunque il paese ha una questione da risolvere con l'Unione Europea riguardo alla tenuta dei conti pubblici italiani, al rispetto meglio degli obiettivi concordati in sede europea, è ovvio che finché questi annunci e questi obiettivi di riduzione di pressione fiscale non si concretizzano, famiglie, certo, e imprese aspettano a prendere decisioni. Luca Paolazzi, un'ultima domanda, l'occupazione, perché voi l'occupazione è ripartita, questo lo vedete da un insieme di indicatori, ma è ripartita, si può usare questo termine, in parallelo con tutti gli indicatori congiunturali, cioè segue? Perché noi sappiamo che l'occupazione in realtà delle volte non è sincronica con quella che è la ripartenza del PIL, l'abbiamo spiegato molte volte, un'impresa, una società può aumentare i fatturati e non assumere immediatamente, la cinghia di trasmissione più lunga, magari stabilizza alcuni contratti oppure fa uscire dalla cassa integrazione alcuni dipendenti, però la cinghia di trasmissione è abbastanza lunga tra ripresa dell'economia e ripresa dell'occupazione. Luca? Assolutamente vero, una volta si diceva che ci voleva qualche trimestre, 4 trimestri prima di vedere la svolta nell'occupazione, dopo la svolta nell'economia, in positivo e in negativo. Quello che stiamo osservando in questa fase, ma per la verità l'avevamo visto anche prima della crisi, è una presa diretta dell'occupazione all'andamento dell'economia, con una capacità di resistenza dei posti di lavoro rispetto al PIL elevata, perché l'occupazione è scesa meno di quanto sia sceso il PIL, e adesso osserviamo una ripartenza persino anticipata, perché l'anno scorso abbiamo avuto la creazione di un certo numero di posti di lavoro quando il PIL ha continuato a scendere, e quest'anno vediamo una partenza che è assolutamente in linea con quella che è la dinamica del PIL, quindi da questo punto di vista c'è un po' più di fiducia e ottimismo che la percezione del recupero dell'attività economica si diffonda più rapidamente e si trasformi in fiducia e rafforzi quindi la risalita del PIL stesso. E quindi diciamo, se così vogliamo dire, una cinghia di trasmissione più corta, meno lunga e addirittura quasi in anticipazione. Lì ancora i dati sono provvisori e invito tutti alla prudenza, ma un effetto Jobs Act e soprattutto decontribuzione da gennaio per i neoassunti per 3 anni c'è stato. Poi sui numeri e le percentuali ancora i dati sono troppi e delle volte anche poco omogenei. Grazie al direttore del centro studi di Confindustria, Luca Paolazzi. Se abbiamo accontentato l'ascoltatore, però vi prego, tutto possiamo fare, ma non iniziare a fare la playlist sulla base delle vostre richieste. C'è scritto un ascoltatore che era una giornata particolarmente delicata e importante. E va bene, allora invece una risposta a tanti altri ascoltatori. Attenzione, è chiaro che quando ragioniamo dello 0,7-0,8% di un incremento dei consumi dello 0,4, di un PIL che è chiaro che è una media, e molti mi scrivono: guardate che questa ripresa non la vediamo. È ovvio, così come quando parlavamo di cali, alcuni non vedevano sti cali perché non è che tutte le imprese hanno avuto cali nei fatturati. Adesso molte imprese o molte società o molti ascoltatori non vedono questa risalita, anche perché è ancora debole. Da qui però a non parlarne sarebbe sbagliato, così come quando vediamo un meno 1 parliamo del meno 1, lì però tutti d'accordo. Anche quando ci sono dei segnali di risalita è giusto parlarne, che poi non si vedano ci sta, come dicono i ragazzi adesso, perché sono dati medi e ancora deboli. Ma non significa raccontare che tutto va bene, significa raccontare che una produzione industriale che rispetto al 2007 è ancora sotto di più del 20% è tornata leggermente a crescere. Ricordo appunto che venivamo da 13 trimestri consecutivi di calo del PIL. Meteo, pubblicità, poi la borsa. Focus Economia. minuti. Allora, alcune agenzie appena battute, il presidente della Bundesbank Hans Weidmann, un altro falco, arcigno Weidmann, sposato con un'italiana, però allora dice, propone il prolungamento automatico dei prestiti ISM appena uno Stato ne faccia richiesta. E poi il privilegio della regolamentazione per le bond statali deve finire il più velocemente possibile. Vabbè, lo dice Wittmann. Andiamo alla borsa. La borsa come ha chiuso? Ripeto, oggi è una di quelle giornate meno 0,20%. Parigi invariata, Francoforte invariata, Londra meno 0,20%, il Dow Jones meno 0,34%, l'euro è 1,09%. Come titoli in evidenza, in positivo ST Microelectronics più 7,60%. Dopo giorni che veniva bastonata. Allora ne parliamo, come ogni tanto facciamo, con l'operatore del mercato dei capitali, dottor Roberto Russo, amministratore delegato di Assiteca. Buonasera, Sim, buonasera. Buonasera a voi. Allora Russo, cos'è? Oggi vi siete accorti che eravate stati un po' troppo duri con ST Microelectronics e avete visto i dati? Perché l'utile è a 15 milioni di euro, i ricavi scendono a 3 miliardi e 400 milioni, però c'è un'attesa per una crescita del fatturato del 2,5%. Sì, no, i risultati sono stati, direi, leggermente superiori alle attese, quindi probabilmente nei giorni precedenti c'è stato qualche dato americano, anche i dati di Apple, che sono stati dati straordinari, però dati sulle attese di vendite future degli iPhone, come al solito la borsa deve sempre vivere di attese e di previsioni, e hanno bastonato proprio STM su delle attese minori rispetto a ciò che dicevano gli analisti. Oggettivamente, quando poi escono le notizie vere, il mercato si è ricreduto e dopo averlo bastonato, come ha detto lei, oggi siamo tornati un po' sulla terra, abbiamo visto dei dati reali e quindi trovo corretto che il titolo sia tornato a dei prezzi congrui. Nulla di straordinario, perché il titolo vale esattamente quanto valeva mercoledì scorso, quindi si è fatto tanto rumore per nulla. Allora, Telecom Italia, ne parleremo dopo, ma insomma meno 2%, adesso io è brutto dirlo, ma quando un'azienda annuncia esuberi, purtroppo delle volte, anzi spesso, la borsa festeggia, perché cioè, bene, migliorerà il conto economico. Piangono le famiglie dei dipendenti, ma festeggiano in maniera cinica, se vogliamo, gli operatori finanziari. Oggi invece il titolo perde il 2%. Sì, però anche qui dobbiamo dire da dove viene Telecom Italia. Cioè, se guardiamo il prezzo di Telecom nell'ultimo mese, è stata una cavalcata trionfale. Erano anni che non vedevamo Telecom Italia sovraperformare il mercato così tanto rispetto appunto a ciò che siamo, a cui eravamo abituati anni fa. Siamo a dei prezzi quasi da sogno rispetto a qualche anno fa, abbiamo toccato un minimo addirittura sotto 0,50. Ritengo che, come ha detto lei, oggi sia una giornata abbastanza interlocutoria e tranquilla, dove più che altro i volumi sono stati anche abbastanza scarsi. Telecom oggi ha sicuramente realizzato i volumi più bassi rispetto alle settimane precedenti, quindi c'è stato qualche ribilanciamento di portafoglio, qualche gestore ha preso beneficio, e Telecom Italia, che solo diciamo il primo luglio valeva 1,16, oggi chiudendo a 22,5, sicuramente rimane un titolo che sta facendo molto bene. Ancora, sì, questo al di là poi dei problemi occupazionali, CNH Industrial meno 2%, quindi l'effetto dell'annuncio della documentazione per lo sbarco della Ferrari in borsa Wall Street non si è sentito su CNH. Vediamo invece la casa Fiat Chrysler più 0,35, Azimuth più 1,87, Moncler più 1,50, Mediobanca più 1,40%. Vorrei concentrarmi anche sulla Ferrari, perché voi insomma, datemi un giudizio su questo. È prevista comunque che i soci, vi sarà un voto multiplo per i soci che deterranno azioni per almeno 3 anni, e appunto Fiat si è mossa, era piatta, poi leggermente negativa, poi ha chiuso con un più 0,35%. Sì, direi che Ferrari è l'ennesima prova della serietà di Sergio Marchionne, che ancora una volta dichiara una cosa e la fa. Quindi la prima notizia importante da dare è questa: nel terzo trimestre dell'anno Ferrari sarà quotata in borsa. Sarà quotata una percentuale massima del 10%, altra cosa che aveva detto Marchionne, quindi ha mantenuto un'altra promessa. Quanto al discorso che faceva lei, cioè questo del programma di loyalty voting, cioè la possibilità per chi dovesse registrare le proprie azioni in questo diciamo albo particolare, dichiarando che le manterrà almeno per 3 anni, e questa possibilità permetterà a questi particolari soci di usufruire di 2 azioni per ogni singola, di 2 voti per ogni singola azione ordinaria. E questa è una novità anche nel mercato, che viene trasferita nel mercato italiano, ma è una tipica caratteristica del mercato americano, ed è già stato detto che appunto Piero Ferrari e Fiat, con la quota residuale, perché questo 10% che sarà collocato sarà venduto interamente da Fiat, perché Piero Ferrari non cederà alcuna azione in aumento di capitale, sicuramente aderiranno a questo piano. Questo è una mossa anche direi strategica di Sergio Marchionne, perché vorrà dire che magari in futuro la Fiat potrà ulteriormente vendere le proprie quote, magari però conservando su quelle che detiene attualmente il doppio del voto. Quindi sono sempre, quando si dichiarano queste cose bisogna sempre ragionare in modo strategico, come fa Sergio Marchionne. E poi quanto alla valutazione di Ferrari, che è sempre la cosa più importante, ad oggi si stima che Ferrari possa avere una valutazione tra i 7 miliardi e i 10 miliardi di euro complessiva, quindi rientra in un programma anche qui molto intelligente di Sergio Marchionne, che porterà molto probabilmente a una chiusura del cerchio, cioè Fiat comprerà probabilmente un grosso player o sui mercati asiatici o su quelli americani. Insomma, le piace Marchionne, questo l'abbiamo capito. Allora, resti con noi in collegamento al traffico. Focus Economia. Dottor Roberto Russo, no, non abbiamo nulla contro Marchionne, l'abbiamo elogiato a suo tempo, criticato qualche anno dopo, quando i vari progetti Fabbrica Italia non andavano in porto e venivano solo annunciati. Se adesso riesce a rilanciare la Fiat a far cassa con la Ferrari e a portare avanti soprattutto il piano industriale sul marchio Alfa, noi siamo contenti perché da sempre tifiamo Italia. Allora, no, lo dico ad alcuni ascoltatori, andiamo avanti col dottor Roberto Russo. Invece, tra chi oggi un po' più si è mosso, al di là di ST Microelectronics, Azimut più 1,80, Moncler più 1,50, Mediobanca più 1,40, abbiamo visto in realtà muoversi anche il settore del cementifero Buzzi-Unice in più 0,30%. Invece gli energetici oggi un po' in difficoltà, Enel meno 1,50%, Snam meno 0,70%, Saipem meno 0,60%, Eni ferma, al di là delle indiscrezioni che potrebbe cedere le sue attività in Nigeria, fa più 0,1% Eni, migliori e peggiori in assoluto, i grandi viaggi più 19%, Okedos più 11%, EMS più 10,70%, e poi ST Microelectronics, Novare meno 3,80%, Enertonica meno 3,50%, BMW meno 3,55%. Vorrei un ultimo commento sul settore cementifero, perché lo seguiamo poco, cioè lo seguiamo solo in borsa, però ha dato qualche segnale di risveglio. Penso ai Italcementi, Buzzi, Unicem soprattutto. Guarda, sicuramente sì, ed è anche un bel segnale, perché come stiamo dicendo in questi giorni abbiamo toccato i massimi dal 2009 dell'indice borsistico. Nel 2009 eravamo tutti quanti un po' disperati, si vendevano bancari e ci si concentrava sulle materie prime, sull'energy come difesa. Lei l'ha detto appena ora, i titoli delle materie prime stanno andando molto giù, i titoli energetici, i difensivi di una volta, oramai sono titoli che invece sono venduti, e i titoli legati all'economia reale, appunto i Italcementi, Buzzi Unicem, cominciano davvero a risultare interessanti. I multipli di questi titoli sono veramente molto ma molto bassi. Abbiamo qualche sentore, e come diceva lei, anche noi diciamo molto per l'Italia, quindi qualche sentore che l'economia italiana un poco di inversione ce la stia iniziando a far vedere, ed ecco che è molto importante vedere questa forza relativa di titoli come Italcementi, Buzzi Unicem. In particolar modo Italcementi è molto più sottovalutata in termini di multipli. Quindi io sono convinto che questi segnali di inversioni anche di macro trend siano degli ottimi segnali proprio per la borsa. Abbiamo anche il vantaggio, non neghiamolo, che abbiamo dei grossi flussi di liquidità provenienti dall'estero. E abbiamo prima parlato di Telecom Italia, è notizia proprio di oggi che Telecom Italia ad esempio sta facendo un'operazione immobiliare da 350 milioni di euro, dove trasforma degli immobili in leasing in immobili di proprietà. L'esatto opposto di quello che si faceva nei momenti di difficoltà in cui si facevano i leaseback. Quindi, certo, quindi lei dice il fatto che il settore immobiliare, che il settore cementifero vada bene è dal punto di vista anche dell'economia reale, del ciclo, un buon segnale. L'altra notizia grossa, ma non è una notizia di borsa, riguarda indirettamente, se volete, anche noi, o meglio questo gruppo, indirettamente, perché i paralleli sarebbero impropri sia in un senso che nell'altro, però insomma i giapponesi si sono comprati il Financial Times, diciamo in maniera un po' prosaica, perché il gruppo editoriale britannico Pearson, che controlla ancora il Financial Times, il principale quotidiano finanziario come riferimento al mondo, avrebbe venduto al Nikkei per 1,3 miliardi di dollari appunto il controllo del Financial Times, e quindi in mano giapponese. Se è un segnale che l'editoria economico-finanziaria tira, noi speriamo di sì, partendo dal gruppo Sole 24 Ore, ma qui siamo in totale conflitto di interesse. Grazie anche al dottor Roberto Russo, amministratore delegato di Assiteca Sim. Grazie. Adesso iniziamo una lunga pagina sull'ILVA, perché l'ILVA oggi va divisa in due tronconi: il processo contro in primo luogo la famiglia Riva, ripeto, il patrone Emilio Riva è morto nel 2014, ma sono stati rinviati a giudizio anche Claudio e Nicola Riva per il presunto disastro ambientale, e poi invece la situazione di cui ci stiamo occupando, che stiamo monitorando in questi giorni sull'Altoforno 2, è tutt'altra vicenda. Lì c'è stato un incidente mortale di un dipendente, e da lì la richiesta di bloccare l'Altoforno 2. Partiamo dal GUP del Tribunale di Taranto, Vilma Gilli, che ha rinviato a giudizio 44 persone e 3 società per l'inchiesta sul presunto disastro ambientale. Sono più di 800 le parti civili che si sono già costituite. Chiedo conferma alla nostra Raffaella Calandra. Buonasera Raffaella. Sì, ciao Sebastiano, ciao a te, ai nostri ascoltatori. Sì, sono più di 800, quante sono appunto le parti che sono considerate, diciamo appunto, che avrebbero subito un danno, e i danni in questo caso vuol dire soprattutto i tanti operai appunto dell'Ilva che secondo l'accusa sarebbero morti anche proprio per le emissioni nocive appunto emesse negli anni dall'acciaieria, e moltissime delle persone che abitano nel quartiere che è più vicino appunto all'Ilva, che è il quartiere Tamburi. Ebbene, il 20 ottobre quello che comincerà a Taranto è stato già ribattezzato il maxi processo in difesa dell'ambiente, il giudizio all'acciaieria più grande d'Europa, ma anche a tutto un sistema politico ed economico accusato di aver permesso per anni emissioni nocive nel cielo della città dai 1000 camini. Tutto questo avviene 2 anni dopo l'inizio di quell'aspra battaglia giudiziaria che i nostri ascoltatori ricorderanno intorno all'Ilva, che portò appunto al blocco degli altiforni, alle minacce anche di licenziamento, a tutto quello che ha portato fino ad oggi. Certo. E per questo appunto il GUP, come ricordavi, ha rinviato a giudizio 44 persone e 3 società per disastro ambientale. Insieme alla famiglia Rima, i Dominus dell'acciaieria, anche l'ex prefetto di Milano Bruno Ferrante, che è stato ex presidente dell'Ilva, certo, nonché l'ex governatore della Puglia Nichi allora Mendola. Raffaella, fermati qui perché noi poi faremo ascoltare anche un audio di Nichi Mendola. Al tempo era, appunto, lui viene rinviato a giudizio come presidente della Regione Puglia al tempo, adesso è chiaramente ex presidente, però lo facciamo ascoltare dopo il GR24. Resta con noi Raffaella Calandra. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito, e se sei arrivato fin qui forse hai voglia di andare un po' più lontano. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Ma una storia speciale che somiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solo attraverso la radio. Non voglio entrare nei dettagli di quel periodo, ma posso dire che ci sono stati dei giorni molto brutti e dei giorni inaspettatamente stupendi. Audiogrammi. All'ingresso del tunnel non ho tenuto le braccia alzate come se stessi volando. Ho lasciato soltanto che il vento mi investisse il viso e ho cominciato a piangere e a sorridere contemporaneamente. Audiogrammi Reloaded, una storia come non l'avete mai ascoltata. Ogni domenica alle 18 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Focus Economia. Alle 18 e 8 minuti riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, Raffaella Calandra, sul rinvio a giudizio di 44 persone e 3 società per la vicenda dell'Ilva, il fronte, diciamo, famiglia Riva, il presunto disastro ambientale, ci eravamo fermati al rinvio a giudizio anche per l'ex presidente della Regione Puglia Nichi Mendola. Di cosa è accusato Nichi Mendola intanto? L'ex presidente è accusato di concussione aggravata. In sostanza al leader di SEL viene contestata una pressione sul direttore generale dell'ARPA pugliese, cioè l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, perché all'epoca ammorbidissero la loro posizione, la posizione dell'ARPA, a proposito della natura nociva delle sostanze emesse dagli altiforni dell'Ilva, e per ottenere questo ammorbidimento avrebbe anche minacciato la non riconferma del direttore dell'ARPA Giorgio Assennato. Una contestazione che poggia anche su una telefonata di Nichi Mendola con l'ex responsabile dei rapporti istituzionali dell'Ilva, Girolamo Archilà, anche lui oggi rinviato a giudizio. Questo è un breve estratto di un'intercettazione agli atti del processo. Tutto poggiato su una scivolata del nostro stimato amico direttore. L'Ilva è una realtà produttiva, lo so, non possiamo rinunciare, dobbiamo vederci, dobbiamo certo. Dare garanzie. Poi volevo dirglielo perché poteva chiamare Riva e dirgli che il presidente non si è difilato. Sì, poi vedremo come si difenderà Vendola. Da quello che abbiamo capito, lui dirà: insomma, io volevo preservare la realtà produttiva dell'ILVA. Il tema qui è sempre il solito. E chiaramente l'ILVA è la realtà più importante pugliese con 12.000 addetti, però bisogna capire poi se c'è un reato, come contestano infatti i magistrati, di appunto pressioni, concussione aggravata in concorso, pressioni indebite, perché insomma poi l'ARPA deve fare il suo lavoro. Adesso cerchiamo di mantenere l'equilibrio su questa vicenda. Abbiamo criticato quando i giudici intervengono senza capire la realtà produttiva, cioè chiudere un altoforno non è come mettere i sigilli a un negozio o a un capannone normale, però allo stesso tempo è chiaro che io capisco, bisogna capire se Vendola si è mosso per cercare di non far troppi danni all'occupazione dell'ILVA o se ha veramente fatto pressione indebite. Quello che lui ha già detto, per, diciamo, commentando la notizia, ha detto che l'unica sua colpa è quella di aver cercato di costruire un equilibrio doveroso, ha detto, tra diritto alla salute e diritto al lavoro, ma non credo che questo sia un reato. Queste sono le parole di oggi di Nichi Vendola, che sicuramente ha ammesso di non affrontare in modo sereno il processo che comincerà il prossimo 20 ottobre, che di sicuro è un processo molto importante. Come ricordavamo prima, è stato considerato già il maxi processo in difesa dell'ambiente. Sì, bisogna appunto capire se lui si stesse muovendo per, e lì aveva ragione, cioè si muoveva nell'ambito delle sue attività e facoltà, e quindi cercare di non creare un danno alla parte occupazionale dell'ILVA, oppure se ha fatto pressioni indebite. Questo poi è il quibus. 20 ottobre il processo. Tra l'altro, come dicevamo, oggi invece due imputati sono già stati condannati con rito abbreviato, invece è stato assolto l'ex assessore. Prego, Raffaella. Sì, scusami, l'ex assessore regionale all'ambiente Lorenzo Nicastro, un carabiniere che lavora in procura e un avvocato sono stati già assolti, mentre tra quelli rinviati a giudizio c'è anche l'attuale sindaco di Taranto, Ignazio Stefano. Già ci sono anche le richieste per le sue dimissioni, ma soprattutto questo dà l'idea di quello che secondo la procura di Taranto è avvenuto negli anni intorno all'ILVA, cioè è proprio tutto un sistema che è stato messo sotto accusa, quindi non soltanto quello della famiglia Riva, ma anche quello delle istituzioni locali. Ecco, devo dire che i due imputati condannati con rito abbreviato, al termine appunto dell'udienza preliminare, sono un prete, Don Marco Gerardo, che è ex segretario dell'ex arcivescovo di Taranto, Benigno Luigi Papa, e l'altro è l'ex consulente della procura ionica, Roberto Primerano. Primerano condannato a 3 anni e 4 mesi per falso ideologico, invece è stato assolto delle accuse di disastro doloso in concorso e avvelenamento in concorso di acque di sostanze alimentari. Al sacerdote invece, Don Marco Gerardo, è stato accusato di favoreggiamento personale, 10 mesi di reclusione. Grazie a Raffaella Calandra. Noi invece restiamo sul tema ILVA, perché su questo, ripeto, sono due vicende molto diverse, vanno tenute distinte, sennò si fa una confusione incredibile. Ma l'ILVA nel frattempo è alle prese anche con il tema dell'altoforno 2. Cosa è successo? L'8 giugno è morto, ahimè, un operaio, Alessandro Morricella. L'autorità giudiziaria di Taranto ha detto che l'altoforno 2 va spento, nonostante il decreto varato dal governo il 3 luglio scorso autorizzi le aziende strategiche come l'ILVA ad avere comunque la facoltà d'uso degli impianti sottoposti a sequestro. Si è impuntata, devo dire che questa vicenda dal punto di vista giudiziario vede protagonisti le donne, sia dal punto di vista del GUP di Magilli che in questo caso anche del custode giudiziario dell'ILVA, Barbara Valenzano, che nonostante il decreto del governo vuole andare avanti, ha detto no, ha ordinato all'azienda di procedere nell'immediato all'attuazione del programma di interventi per lo spegnimento. Questo nel giorno in cui uno dei commissari straordinari per l'IVA, Piero Gnudi, in audizione alla Camera ha detto che grazie all'ultimo prestito ponte delle banche, della Cassa Depositi e Prestiti, i provvedimenti dell'attuazione del piano ambientale stanno andando avanti e hanno anche accelerato, sono ampiamente oltre l'80%, l'azienda non è decotta, anzi nel 2017 gli utili prima delle tasse saranno notevoli, ha detto Gnudi. Taranto è uno degli stabilimenti più efficienti d'Europa e, se ho ben capito, ma chiedo a Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore, ha anche ammesso che ci siano contatti per evitare lo stop all'Alto Forno 2. Domenico, buonasera da Taranto. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Sì, è quanto ha detto oggi Gnudi nell'audizione davanti alle commissioni ambiente e attività produttive dalla Camera. Facciamo un piccolo passo indietro. Ieri sull'Alto Forno 2 ci sono stati due incontri, uno alla Procura Generale di Lecce, l'altro inserato alla Procura di Taranto. Si sta cercando di costruire una soluzione condivisa, ma soprattutto giuridicamente sostenibile, perché l'Alto Forno non sia stoppato. Oggi lo stesso Gnudi ha detto che sono in corso contatti con l'autorità giudiziaria, però il problema non è stato ancora risolto, il problema è ancora presente. Che tipo di soluzione si profilerà per l'Alto Forno? A quanto pare il 24 luglio l'azienda comunque presenterà il cronoprogramma di fermata dell'impianto all'autorità giudiziaria e al custode, però da allora dovranno decorrere 15-20 giorni perché poi ci sia l'eventuale effettiva fermata degli impianti. In questi 15 giorni che cosa farà l'ILVA? Presenterà a quanto pare una nuova istanza al PM e dove spiegherà tutte le misure adottate sul fronte della sicurezza dell'impianto, quelle che sono in corso di attuazione e quelle che attuerà in seguito per rendere questo impianto ancora più sicuro e prevenire il rischio di incidenti rilevanti. Nella nuova istanza praticamente che l'azienda si accinge a presentare al PM farà un discorso più orientato sul funzionamento dell'impianto e dello stabilimento che sulla produzione, e in questo modo diversificandosi da quanto sostiene il decreto legge, che parla più di aspetti produttivi. Perché questa differenziazione? Perché i magistrati ieri hanno ricordato all'ILVA che l'impianto è stato sequestrato per un reato, la morte di un operaio, e quindi per una situazione di pericolo, e dunque i magistrati vogliono vedere da parte dell'azienda risposte sul fronte della sicurezza impiantistica dell'Alto Forno. Se questo poi servirà a neutralizzare del tutto lo stop dell'Alto Forno 2 si vedrà. D'altra parte Gnudi ha detto oggi che i contatti Ci sono in corso. E si sta cercando. No, anche perché il tempo è pochissimo, se ben ricordo. Comunque vorrei capire, restare su questo punto dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. E 19 minuti. Allora, Domenico Palmiotti, restiamo sull'ultimo punto, perché Gnudi ha detto i contatti ci sono per scongiurare il problema dell'Alto Forno 2. A noi risulta che come tempi, insomma, la custode giudiziaria, che è appunto Barbara, il custode giudiziario che Barbara Valenza, hanno chiesto di essere informata entro il 24 luglio in merito alla realizzazione delle opere per procedere alle attività di spegnimento, vuol dire entro domani. Da quello che capisco io, ma forse capisco male, è che lei dice entro domani dovete dirmi cosa avete fatto per iniziare lo spegnimento dell'Alto Forno 2. Certo, domani l'azienda presenterà questo cronoprogramma, poi come dicevo ci sono 15 giorni per arrivare alla fermata effettiva dell'impianto. In questi 15 giorni l'azienda vuole giocare la sua partita e quindi presentare anche un'istanza al PM dove appunto illustra quello che sta facendo per migliorare l'aspetto della sicurezza. Nel frattempo bisogna dire che oggi le norme che permettono all'ILVA di continuare la produzione nonostante l'impianto sequestrato hanno già incassato il voto di fiducia della Camera con la DL fallimenti, ci sono stati 355 sì, quindi queste norme stanno diventando legge prima del previsto, tant'è che la conversione definitiva in legge da parte del Senato avverrà nella settimana fra il 3 e il 7 agosto. Questo vuol dire che le norme si rafforzano da un lato, in più un problema viene meno ed è l'eccezione di incostituzionalità che il GIP aveva presentato sul decreto legge del governo. Essendo stata presentata l'eccezione di incostituzionalità sul decreto e ora c'è la legge, l'eccezione stessa viene a decadere. Quindi è un problema in meno che ci si ritrova sul tavolo. Però ecco, si sta lavorando per trovare una soluzione condivisa, un punto di raccordo su questa vicenda dell'Alto Forno, che preoccupa molto anche Confindustria Nazionale, che proprio ai primi di settembre terrà a Taranto un consiglio generale per evidenziare come il problema dell'Ilva e della tutela dell'industria siderurgica nazionale sia una questione importante per tutta l'economia del paese. E questo sicuramente per quello che riguarda l'Alto Forno 2. Ancora dico, vedo molti ascoltatori che chiedono: ma allora lo chiuderanno? Non lo so se lo chiuderanno, dobbiamo aspettare domani il cronoprogramma dell'azienda. Faccio notare, e l'abbiamo spiegato in questi giorni, che visto che l'Alto Forno 1 è stato rifatto e per riaprire deve avere i gas prodotti dall'Alto Forno 2, se non chiude l'Alto Forno 2 non può essere preacceso l'Alto Forno 1, e l'azienda sostiene che se resta solo attivo l'Alto Forno 4 diventa pericoloso produrre. Nella peggiore delle ipotesi, Domenico, questo vorrebbe dire il fermo della produzione? Beh, certo, perché oggi l'Ilva c'ha soltanto due altiforni, il 2 e il 4 in marcia, e se si ferma il 2 su provvedimento dell'autorità giudiziaria e poi l'azienda è costretta a fermare il 4, è evidente che tutta la linea produttiva si azzera. E questo in un momento in cui, come ha detto oggi Gnudi alla Camera, si stanno facendo gli sforzi per rilanciare l'azienda. Ecco, il cammino è già in salita, non c'è bisogno di ulteriori complicazioni. Perfetto, grazie Domenico Palmiotti, grazie, in collegamento con noi da Taranto. Allora, novità sul fronte Telecom? No, non vogliono parlare in questo momento i sindacati, ripeto, non devo dare due o tre aggiornamenti in chiusura di programma. Allora, sul fronte Telecom resta la notizia che si è diffusa dopo l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, in cui Telecom Italia, a sorpresa, ha annunciato a sindacati e Ministero un piano per 1700 esuberi. Lasciamo stare le aree staff, director assistance, cross activity e parte dell'information technology, sono 1700 esuberi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha detto che sta cercando di favorire e si impegna a favorire un accordo in tempi brevi con il sindacato, ma Massimo Cestaro, abbiamo cercato ma in questo momento sono tutti chiusi ancora i sindacalisti, ha detto della SLC-CGIL che la proposta arrivata dall'azienda è irricevibile, sino a quando non vedremo eliminata dall'avvertenza la questione della societarizzazione del servizio di customer di Telecom non apriremo alcun negoziato con l'azienda, perché saremo impegnati a attivare tutte le iniziative di contrasto a tale scelta, visto che il 60% delle vendite passa attraverso questo canale. È chiaro che in questo modo Telecom Italia ha anche, era abbastanza prevedibile, ha anche sospeso, accantonato per la precisione l'assunzione di 4.000 giovani, ma lo lega all'assenza di una normativa, cioè di una legge che sostenga il ricambio generazionale nelle aziende con elevata età media e che permetta allo stesso tempo la tutela del livello occupazionale. Poi un'altra notizia arrivata, la Corte Costituzionale, però non è retroattiva la notizia, perché sennò avremo un déjà vu, ha bocciato il blocco dei contratti della pubblica amministrazione, quello che è scattato nel 2013-2014 ed esteso al 2015, dice che è una violazione della libertà sindacale, non ha valore retroattivo, quindi non vi sarà un esborso per il governo. Il ministro della pubblica amministrazione Mariana Madia ha detto, dopo il deposito della sentenza della Consulta, nella discussione sulla prossima legge di stabilità capiremo le risorse, da lì dobbiamo partire. Tra l'altro è una discussione da fare adesso, da adesso fino all'autunno. Due notizie in breve ancora prima di salutarci. La prima riguarda lo sciopero domani indetto. Devo dire che adesso lo sciopero è un diritto, ci mancherebbe, però è molto arrabbiata l'Italia, ma in realtà domani saranno furibondi moltissimi italiani e anche in generale viaggiatori che volevano partire. Perché cosa succede? Domani l'ANPAC, che è uno dei sindacati di piloti e assistenti di volo, ha proclamato uno sciopero di 24 ore per i voli. L'Italia, se ho ben capito, scatta già dalla mezzanotte di stasera. Alitalia ha dovuto cancellare il 15% dei voli previsti, sono tutti corto e medio raggio, per cui i voli anche e soprattutto per chi va in vacanza. Alitalia afferma che lo sciopero è irrispettoso di consumatori e colleghi, proprio mentre nell'aeroporto di Fiumicino si tenta di tornare alla normalità. E chiudiamo con una buona notizia, perché abbiamo aperto con la famosa tassa sui consumatori, sui condizionatori. Ho visto decine di messaggi arrivare. In realtà non è una decisione del governo Renzi, questo va detto, è sostanzialmente una normativa di carattere europeo che però, secondo quanto denunciato dall'associazione dei consumatori, rischierebbe di far pagare 200 euro in più. C'è una direttiva europea sulle emissioni di anidride carbonica che prevede che i proprietari posseggano un libretto di impianto e introducono controlli dei condizionatori ogni 4 anni. Il Ministero poco fa ha diffuso una nota per cui in realtà ad essere sotto controllo saranno solo gli impianti superiori ai 12 kW. Tra l'altro potenza maggiore o uguale, leggo assieme a voi la nota del Ministero, a 12 kW, l'obbligo di possedere il libretto, fa notare il Ministero, è in vigore dal 2014, che è l'anno in cui la normativa europea ha equiparato gli impianti di climatizzazione a quelli di riscaldamento. Quindi non vi sarebbe, se non per chi ha un impianto potente sopra i 12 kW, una nuova tassa, come in maniera un po' allarmistica denunciavano oggi Federconsumatori e Adusbef. Beh, speriamo, visto il caldo che fa. Allora, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo domani dalle 17 in poi. C'è la poco invidiabile classifica degli sprechi della settimana anche domani. Intanto, da Sebastiano Berisoni, l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.